della professoressa senatrice Paola Binetti. È organizzato dal Centro Culturale Catane, che è un centro che opera all'interno della Fondazione Arces e si occupa della formazione dei giovani. Io ho il compito di introdurre, ma sarò molto breve, intanto per ringraziare il presidente della provincia, l'onorevole Giuseppe Castiglione, che secondo una tradizione ormai consolidata ha messo al servizio le strutture di questo complesso fieristico, le ciminiere, in particolare quest'aula, per poter svolgere questo incontro, che è un incontro destinato alle famiglie di adolescenti, perché il tema sarà proprio quello dell'adolescenza, la valorizzazione dell'identità personale nel contesto familiare e sociale. Sono sicura che sentiremo delle cose molto interessanti e molto utili per tutti. Io stessa ho dei figli che sono forse usciti dall'adolescenza, comunque ancora si combatte, e penso che lo stesso presidente ha dei figli giovani, quindi anche lui avrà modo. Allora ecco, io a questo punto inviterei il presidente, se vuole appunto fare un indirizzo di saluto. L'unico rammarico, perché dovrò andare via, non è una frase di circostanza, però chi mi ha invitato sapeva che avevo già assunto altri impegni, però non potevo perdere questa straordinaria occasione. Tra l'altro invito la senatrice Binetti, dall'altro lato, un altro padiglione, abbiamo inaugurato stasera una bellissima mostra dedicata a Giovanni Paolo II. Abbiamo fatto un accordo con la Reuters, quindi le più belle immagini di questo lungo percorso, di questo papato straordinario, quindi l'abbiamo messo con... c'è una bellissima mostra dall'altro lato, quindi poi inviterò tutti ad andare subito dopo questa conferenza. Per me è un privilegio, è stato detto un grazie al Presidente, ma credo che questa sia la casa di tutti, e un grazie a voi, perché ancora una volta non solo potete far pregiare di questo straordinario monumento e complesso fieristico di Ciminiere, che stiamo cercando anche di ristrutturare, a portare anche delle modificazioni di carattere strutturale, però è anche un grande centro culturale. Ogni qualvolta voi chiedete questa sede, lo arricchite dal punto di vista culturale. Oggi un privilegio, un onore avere la senatrice Binetti, avere la dottoressa Binetti, la professoressa Binetti qua in questa sede, perché certamente sarà un tema molto interessante, sarà una occasione straordinaria di incontro con la società civile catanese, con una bella realtà del mondo cattolico, un mondo cattolico che vedo nelle diverse, vedo già in questa sala, che hai avuto anche il privilegio di unire stasera, quindi già un mondo cattolico che sente l'esigenza, avverte la necessità su alcuni grandi temi di potersi confrontare, di poter trovare spazi di confronto, e quindi quella di stasera penso che sarà una bella serata di riflessione. Quindi un grazie per la tua presenza, un grazie anche per il contributo assieme alle associazioni, al gruppo Arces, l'associazione Catane. Stiamo lavorando, abbiamo realizzato in provincia un osservatorio provinciale sulla famiglia, quindi anche il tema di oggi si inserisce in questo contesto. È un osservatorio che va certamente rivitalizzato, va dato una spinta, non l'abbiamo costituito, ma ognuno di noi aspetta poterlo far diventare uno strumento attivo e soprattutto creare anche occasione come quella di stasera. Quindi un grazie particolare, un grazie per l'invito, un grazie alla senatrice Binetti, e soprattutto vi chiedo scusa veramente, perché avrei avuto anche il piacere di poter ascoltare, di poterci confrontare, perché su questi temi penso che si gioca anche il futuro non solo della politica, ma il futuro delle nuove generazioni, si gioca anche il nostro ruolo di cattolici impegnati in politica. Quindi grazie per questa presenza, e un grazie a voi ancora per l'invito. Chiaramente la sede della provincia, che poi la sede di tutti noi, resta a vostra completa disposizione per tutte queste occasioni, che certamente fanno crescere la nostra città, fanno crescere provincia, ma arricchiscono personalmente ognuno di noi. Grazie. Grazie Presidente, io passo la parola alla professoressa Giovanna Scalia, che modererà l'incontro. buonasera a tutti. Un applauso al Presidente della Provincia, onorevole Castiglione, per il suo intervento e per la disponibilità anche per aver messo a disposizione questi locali e questa struttura veramente che è un vanto della nostra città. Ecco, che cosa volevo dire? Che questo incontro, l'incontro di questa sera, è stato organizzato dal Centro Culturale Catane, che svolge tutta una serie di attività formative, culturali, professionali, rivolte ai giovani e alle famiglie in particolar modo. Una di queste attività, la Sala Studio, strano nome, no? La Sala Studio che cos'è e qual è il suo significato? È un ambiente educativo capace di sostenere le famiglie nel percorso educativo nei confronti dei loro figli ed è un luogo fisico proprio dove studentesse, adolescenti, liceali si incontrano non solo per studiare, perché è chiaro che l'attività primaria della sala studio è quella di trasmettere metodologia di studio, di far sì che le nostre studentesse possano apprendere uno studio efficace. Ma non solo questo, è un luogo dove possono vivere e partecipare ad attività in un clima di amicizia e di allegria anche. Il Centro Culturale Catane si riferisce all'associazione ARCES, la professoressa Cavallaro già aveva accennato qualcosa, che cos'è? È un collegio universitario, un'associazione no profit, lo è fin dal 1976, è stato eretto in ente morale. Quali sono i suoi compiti? Che cosa si prefigge? Si prefigge principalmente di accompagnare i giovani durante tutto il loro percorso culturale, ma soprattutto uno degli obiettivi è quello di fare da ponte fra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. Non soltanto questo però, perché chiaramente accanto all'attività di formazione, accanto all'attività scolastica, universitaria, eccetera, svolge anche lavoro di formazione diretto soprattutto alla crescita delle qualità umane della persona. Io non voglio dire altro perché è il momento di passare la parola alla professoressa Paola Binetti, nostra ospite, che cosa dire di lei? Se dovessimo parlare del suo curriculum occorrerebbe sicuramente molto tempo per dire qual è la sua attività professionale. Sicuramente va detto che è una neuropsichiatra infantile e che opera in campo medico per quanto riguarda proprio il lavoro in medicina e di recupero sociale in campo medico. È senatrice della quindicesima legislatura, no? E adesso è parlamentare della sedicesima. La professoressa Paola Binetti è qui per parlare, qui non in veste di politico, ma per noi è qui come esperta in problematiche educative rivolte ai giovani e alle famiglie. Devo aggiungere anche che tutto il suo lavoro in ambito politico è finalizzato proprio alle lotte nei confronti del rispetto della famiglia come luogo naturale di educazione e di formazione dei figli. Adesso passo la parola alla professoressa Binetti e introdurrà l'argomento di questa sera, che rivediamo in adolescenza la valorizzazione dell'identità personale nel contesto sociale e familiare. Scusatemi, volevo solamente aggiungere che alla fine della relazione saranno rivolte sicuramente molte domande e sarà dato spazio a questo anche perché l'incontro è finalizzato a questo. Grazie. Allora, grazie a tutti voi di essere presenti qui un sabato pomeriggio, che non è poca cosa, un sabato pomeriggio di maggio, per male che il tempo fuori non era brillantissimo, sennò altrimenti penso che molti di voi si sarebbero dedicati ad attività più riposanti dal punto di vista della bellezza, della comunicazione anche di tanti spazi interessanti che la Sicilia, ma anche questa zona bellissima della Sicilia può offrire. Ma proprio pensando al tema che mi era stato affidato questa sera e pensando a voi, alla città di Catania, questo mi viene in mente un esempio che qualche volta ho fatto dopo averlo, come dire, apprezzato, non ricordo più nella narrazione di chi. E diceva che l'adolescente, questo esempio, quindi non ricordo nemmeno l'autore, però ricordo che l'immagine mi aveva colpito molto, no? L'adolescente è una persona che è costantemente e continuamente alla ricerca dei confini della sua identità, come se fosse su un'isola, no? E mentre esplora quest'isola, perché esplora se stesso, si mette alla prova, cerca di capire chi è, cerca di capire che cosa può fare, cerca di capire anche, in un certo senso, quanto vale, cerca di capire qual è il livello di stima, di fiducia, di amore anche che si ha nei suoi confronti. Ci sono degli adolescenti che mentre esplorano questi confini possono sentirli troppo stretti, qualche volta li sentono come confini soffocanti, qualche volta invece riescono, come dire, ad avere un respiro maggiore. Però quello che segna davvero il punto di maggior interesse nella vita di un adolescente è quando si rende conto che i limiti della sua isola sono i confini dell'oceano. Cioè quando percepisce che quella situazione in cui si trova, qui si parla del contesto familiare e del contesto sociale, quando percepisce che in quel contesto familiare che ogni tanto gli sembra stretto, piccolo, arretrato, soffocante, come succede abbastanza facilmente agli adolescenti, questo senso del limite che prova in famiglia vuol dire che è arrivato davvero ai confini dell'oceano. Cioè questo sperimentare contestualmente la piccolezza del mondo in cui lui si trova e dal quale sempre tipica esigenza dell'adolescente vorrebbe uscire, vorrebbe male, sapere che quando è arrivato al senso del limite, quel limite è già una meta importante, perché lui già è sulla soglia dell'oceano e quindi è sulla soglia di quello che nell'immaginario di tutti noi è una realtà pressoché infinita. A tutti noi questa sensazione ci prende molte volte nella vita, no? Questa sensazione un po' di spaesamento, per cui ci sembra che il posto dove stiamo, spesso è il posto di lavoro, qualche volta è l'ambiente in cui ci muoviamo, l'ambiente familiare anche per voi, ci sembra stretto, ci viene fatto di pensare che per noi sogniamo altre mete, sogniamo come dire altre prospettive, sogniamo un oltre il quale in qualche modo ci sembra di non poter andare. Bene, quando siamo arrivati a sperimentare quel limite è nello stesso tempo il confine dell'infinito. Se si riesce a cogliere questo nella nostra vita, quello stesso spaesamento recupera quella dimensione profonda che è la dimensione della sicurezza interiore, la dimensione dell'equilibrio, no? Cioè sperimenta quel senso del ritorno a casa. Sono arrivato fino ai confini del mio universo e adesso in un certo senso torno a casa. In questo altalenare di sensazioni, altalenare di emozioni, in questo sentirsi contestualmente vincolato, stretto e affamato invece di libertà, affamato di possibilità di esplicitare talenti, valori, sogni, desideri, in questa, diciamo, apparente ambiguità tra il voler volare e il sentirsi soffocati, si colloca un po' tutta la ricchezza dell'esperienza dell'adolescente E dicendo questo si colloca un po' anche tutta la complessità delle modalità educative con cui noi dobbiamo aiutarlo a traghettare questa esperienza. Non c'è dubbio che un adolescente che non fosse capace di mettere in qualche modo in discussione i confini di ciò che gli è stato dato e non sognasse oltre, è un adolescente che ci sarebbe mancare di quelle che noi chiamiamo le ali della libertà. Ma un adolescente che sciupasse questa risorsa, che è l'infinito desiderio di libertà che c'è, buttandola via in esperienze che gli fanno del danno e gli fanno magari un danno permanente, è anche un adolescente che sta buttando via in altro modo la sua adolescenza. E buttare via la propria adolescenza significa buttare via la propria vita. Ci sono quindi entrambi i modi, quelli che ci devono incutere una sorta di paura nel tratto dell'adolescente. L'adolescente che cerca un eccesso di sicurezze, e poi vedremo quali sono le moderne forme dell'eccesso di sicurezze vissute nel contesto addomesticato della propria casa, e l'adolescente invece che vuole uscire da questa casa senza in un certo senso interrogarsi su dove sta andando, come ci sta andando. Anche in questo caso c'è una metafora molto bella che ci consegna l'attività, ricordate tutti la famosa storia di Dedalo e Icaro, no? Erano in quel labirinto chiusi finché, tanto a caso, diciamo, tra virgolette, è rimasta l'idea del Dedalo come quasi sinonimo di labirinto, e lui costruisce queste ali, il padre costruisce queste ali, le costruisce per sé e le costruisce per il figlio. In questo, guardate, c'è già una immagine straordinaria di un interrogativo forte che l'adolescenza pone alla nostra società. Ed è l'immagine della figura del padre. Il padre che insieme al figlio costruisce le ali per sé, perché ogni adolescenza di un figlio è una nuova adolescenza del genitore. Se ci riusciamo, cercheremo di spiegare per quale ragione è sempre costantemente una nuova sfida per noi. Costruisce quindi queste ali per sé e per il figlio, delle ali che dovrebbero permettere di abbracciare l'infinito, quindi di uscire dalla prigione in cui ci si sente stretti e di volare. Ma questo richiede quella giusta misura di spirito dell'avventura, quella giusta misura di coraggio e quella giusta misura di potenza. L'ebbrezza della libertà sappiamo tutti perfettamente come finisce: Icaro vola troppo alto e il sole scioglie la cera di cui erano fatte le sue ali e quindi poi precipita disgraziatamente nell'oceano. Questa immagine, guardate, ognuno dei passaggi di questa immagine è quello che poi peraltro accende in tutti noi l'amore per la cultura classica intesa come l'amore per quei valori che non tramontano mai, ma anche per quelle immagini della vita. Questo padre cerca di parlare con questo figlio, cerca di incoraggiarlo a mantenersi sufficientemente alto per poter volare e sufficientemente basso perché il sole non scioglie le sue ali. Ecco la difficoltà straordinaria dell'educazione degli adolescenti. Questa capacità di saper sollecitare ad andare e nello stesso tempo questa capacità di dotarli di uno strumento di autocontrollo perché non precisa. E in questo caso Icaro non dà ragione. Non dà ragione e la fine è una fine miserabile. È una fine che diventa un tormento per questo padre, che si dispera, perché quello che avrebbe voluto offrire al figlio come opportunità di libertà si traduce di fatto in una tragedia. Ma senza quell'opportunità la vita di Icaro non avrebbe mai avuto un senso. Ma quell'opportunità non basta averla offerta a un figlio perché sia davvero una risorsa per lui. Questo, vedete, credo che rappresenti per ogni genitore la complessità del momento educativo dell'adolescente. Sbagliano gravemente quei genitori che, troppo timorosi, non permettono mai ai figli di fare esperienza. Noi riteniamo il vostro gruppo gruppo abbastanza significativo di studiosi dell'adolescenza, riteniamo, per quanto vi possa sembrare anche qui paradossale, che la pesante dipendenza che hanno molti giovani dal mondo virtuale, mi riferisco ai giovani, adesso c'è addirittura una sindrome che è stata definita, la sindrome della dipendenza da internet, no? Tant'è vero che ci cominciano ad essere già delle cure per disintossicare i ragazzi da internet, perché sembra quasi che non possano fare a meno, no? È una specie di nuovo modello di cordone umbilicale. Però questa sindrome dalla vita virtuale, in cui l'esperienza non assume mai il carattere della realtà, ma è sempre un'esperienza che sostituisce oltretutto con una sorta di protesi quella che è l'immaginazione, perché è un'immaginazione virtuale, molte volte sia anch'essa legata a un certo tipo di timore con cui, come dire, i genitori non sono stati sufficientemente capaci di promuovere nei figli il coraggio di, come dire, uscire all'aria aperta, il coraggio di cimentarsi con le difficoltà. È come se il bisogno di sicurezza avesse soffocato il bisogno di libertà. In realtà, in questo modo, la stessa sicurezza, e questo ce lo insegna anche la cronaca di tutti i giorni, la stessa sicurezza presunta, che cosa sembra esserci di più sicuro per un genitore che sapere che il figlio sta nella sua stanza, in un certo senso sotto il suo controllo, nell'ambiente amicale e protetto della sua casa, della sua famiglia. Eppure tutti noi cominciamo a capire tante insidie che vengono proprio anche da questo mondo virtuale per insegnarci che cosa? Che la sicurezza, se non è nella testa, nel cuore, se la bussola non è una bussola dell'intelligenza, non è una bussola anche etica, non è una bussola di, come dire, autentica prudenza, non serve, nemmeno se il contesto che abbiamo ricreato è il contesto falsamente rassicurante del ragazzo che ha nella sua stanza il suo apparecchio, il suo computer, le sue connessioni, con il quale prende a prestito mille vite che non sono la sua, ma nonostante queste vite possano sembrare in fondo delle vite innocue, da queste vite innocue cominciamo a capire tutti che ci sono una serie di, come dire, rischi che possono davvero insidiare la vita dell'adolescente. Ecco allora che noi ci troviamo a dover fare i conti con i confini fisici dell'esperienza dell'adolescente, in casa, fuori di casa. E se in casa, dove? Nella sua stanza, con quali compagni di strada? Con quali immagini che vengono fuori da quella apparentemente innocua scatoletta? E se fuori di casa, con quali amici, in quali contesti? Non riusciremo mai, anche se qualche volta ci piacerebbe avercelo, ma è una fantasia fortunatamente irrealizzabile, non riusciremo mai ad avere quella specie di grande fratello che ci dice in tutti i momenti dove stai, cosa fai, con chi stai, come stai. Dobbiamo per forza affidarci a un livello crescente di assunzione di consapevolezza di sé, con cui l'adolescente prende in mano lui la sua vita e la gestisce. Ecco allora che il bene straordinario e irrinunciabile resta quello sempre efficace del dialogo tra padre, insisto soprattutto sul padre, guardate, perché nell'adolescenza è dimostrato da notevoli studi che la figura forte è la figura paterna, sia per il figlio maschio che per la figlia femmina. E in questo senso la crisi degli adolescenti di oggi è la stessa espressione di una crisi del senso della paternità. Ed è una crisi del senso della paternità perché è una crisi del fatto che è venuto meno con l'istanza educativa della paternità, non solo l'istanza normativa e precettiva, ma anche l'istanza etica. Il ragazzo ha meno capacità perché gli vengono posti meno, appunto, limiti, gli viene dato meno ragione del perché di questi limiti, gli si chiede meno di dimostrare nei fatti di essere all'altezza della situazione per affrontare quei limiti, e in qualche modo questo invece di tradursi in una sorta di maggiore sicurezza e di maggiore capacità di avventura si traduce in una sorta di imbastardimento della prospettiva dell'esistenza di un adolescente. E quindi torna ad essere fondamentale il dialogo con il padre, che, attenzione però, non è il dialogo né della narrazione della vita del padre, una sorta di amarcord, quando io ero piccolo, quando io facevo questo, qua, cioè, non sono io che mi racconto a te e che mentre mi racconto manipolo il mio racconto, perché da questo racconto a tema e a tesi io voglio ricavare delle indicazioni morali che ti servono. Questa è una trappola tipica in cui si incorre, qualunque educatore incorre nella trappola di raccontarsi avendo abbastanza chiara la consapevolezza che il racconto di sé potrebbe non essere né del tutto edificante né del tutto efficace, e quindi provvede, come dire, come degli aggiustamenti, come si fa quando con il computer si fa il Photoshop, no? Aggiusto l'immagine perché in qualche modo risponda meglio alle tue esigenze. Non è questa la narrazione di cui oggi abbiamo bisogno, quindi non è una narrazione discendente che procede dal padre verso il figlio e che in qualche modo dice ciò che io ero. Noi abbiamo, dice ciò che io ero per dire ciò che tu dovresti essere. Noi abbiamo bisogno di un altro modo di narrazione. Abbiamo bisogno di una narrazione ascendente che venga dalla capacità di ascolto dei figli. Abbiamo bisogno di dire a questi figli, raccontami. Ora, tutti quanti noi sappiamo come si può ridurre questa sollecitazione alla narrazione quando è fatta male la sollecitazione. Quando il ragazzo lo percepisce con una maniera invasiva e intrusiva nella sua intimità, o percepisce che in fondo non siamo interessati, o peggio ancora, percepisce che siamo interessati a fargli raccontare una cosa perché già sappiamo che cosa gli dobbiamo dire. E quindi che in un certo senso la narrazione di sé che lui potrebbe fare è una narrazione che in qualche modo è destinata a diventare una sorta di boomerang che si intorce a sua età. No. La narrazione di sé che ogni padre dovrebbe chiedere al figlio ha il senso dello stupore. Non è una narrazione che conosce già le risposte, esattamente come non è una narrazione che ha il carattere di immediatamente, come dire, si traduce immediatamente in un codice di comportamento. È la narrazione di chi vuole capire. Molto spesso il rapporto di estraneità che a un certo punto drammaticamente coglie alcuni genitori davanti a situazioni che si possono presentare che riguardano il figlio e si scopre che questo figlio non lo conosciamo, è davvero altro da quello che immaginavamo che fosse. Non solo non è più il nostro bambino, ma è un soggetto che ci stupisce, ma ci stupisce quando c'è un evento drammatico che fa esplodere lo stupore. Viceversa, noi dovremmo riuscire a gustare lo stupore del quotidiano. Guardate, c'è un momento straordinario, no? Che i genitori sperimentano quando il bambino piccolo fa le sue primissime scoperte, quando ci rendiamo conto che perché parla, perché dice una cosa, perché fa una domanda, perché ci sorprende. C'è un momento dell'infanzia davanti al quale i genitori sono veramente come degli spettatori attoniti della bellezza che quel bambino sta rivelando, bellezza che è data dalla capacità di risveglio di quell'intelligenza, di risveglio di quella curiosità, di freschezza di quell'emozione che ci sta comunicando. Poi in qualche modo c'è una specie di stordimento per tutti noi e ci finiamo col dare tutto un po' per scontato. Finiamo con un certo senso dedicare troppo poco tempo, avere sempre fretta. Viceversa, non c'è educazione, non c'è relazione con l'adolescente che possa essere efficace se non si declina all'interno di una generosa dedicazione del proprio tempo. Ho detto appositamente generosa dedicazione del proprio tempo perché mi dispiace molto quando qualche volta sento dire anche da persone esperte con i figli bisogna perdere molto tempo. In realtà il tema vero è che con i figli si guadagna molto tempo. Si guadagna molto tempo quando si sa stare ad ascoltare. D'altra parte risulta impressionante certe volte, come noi dedichiamo, a volte anche nel nostro contesto di lavoro, molto tempo, magari adesso dico la più banale delle cose, no? A discutere con amici e colleghi del campionato di calcio o della partita così, o dedichiamo altrettanto tempo a discutere facendo, prima facevamo il toto scommesse su chi avrebbe vinto il campionato, adesso facciamo il toto scommesse su chi magari vincerà le elezioni, ma sempre sono argomenti importanti, sia il campionato che le elezioni, ma sono argomenti che in qualche modo sono più distanti da noi, di quanto non lo sia la responsabilità, la prossimità affettiva che abbiamo con quel nostro figlio, in cui mentre tutti potrebbero discettare di politiche sportive, tutti potrebbero discettare di politiche economiche, tutti potrebbero discettare di aggregazioni in qualche modo, nessuno se non noi può in quel momento realizzare l'ascolto di questo figlio. Penso che molte volte sarete stati sollecitati dalle maestre, da chi sia, dei vostri figli a riflettere sul fatto sull'etimologia, no, della parola obbedienza. Obbedienza deriva evidentemente dalle due parole ob, audito. I bambini non obbediscono perché non ascoltano. I bambini non ascoltano perché nessuno li ascolta. Allora, ecco che la riscoperta della ricchezza dell'ascolto significa peraltro per tutti noi avere una sorta di valore aggiunto anche alla nostra gioventù. E io vorrei richiamare l'attenzione su quello che sta succedendo in questo momento in tutto il nostro Mediterraneo. In Italia poche settimane fa avete visto le strade piene di giovani, i famosi giovani precari, che protestavano contro, non ha nemmeno una connotazione politica, protestavano contro una società che si sta rivelando nei loro confronti matrigna, ostile. È un problema degli italiani, dell'Italia, del nostro governo? No. In Spagna succede la stessa cosa. In Spagna li chiamano i ragazzi indignati. Hanno riempito le piazze di Madrid e sono indignati questi giovani, lasciatemi dire, adolescenti un po' cresciuti, ma adolescenti anche loro. Perché sono adolescenti? Perché nessuno di loro ha avuto la fortuna di misurarsi materialmente con quelle che erano le due stanze forti con cui tutti noi siamo usciti dall'adolescenza: il lavoro e il matrimonio. In Nord Africa l'abbiamo visto, si è acceso al di là di tutto, in maniera sorprendente per tutti, di questi giovani. Cioè, noi abbiamo questa capacità di giovani che ci sembrano, ci stupiscono per le proteste, per la capacità di organizzarsi, per la fame di libertà, per il desiderio di impegno che riflettono. Ma la cosa che più ci stupisce è quanto si siano stupiti coloro che non percepivano un disagio crescente. Un disagio crescente che non può che essere iniziato in famiglia. Qui la reazione dice del contesto familiare e sociale. Nessuno ha ascoltato questo disagio. Abbiamo avuto risposte veloci, battute magari al formicotone, soluzioni precostituite, per dire già che cosa si sarebbe dovuto fare, ma non abbiamo ascoltato veramente cosa definiva questo universo interiore che questo figlio, che era nostro figlio, ci stava ponendo. Alle volte con i ritmi lenti di chi non ha già in mente un pensiero organico, ma lo costruisce mentre riferisce. L'adolescente non è già giunto alla sintesi di quello che sta facendo, sta, come dire, ripercorrendo insieme la strada che dovrebbe aiutarlo prima di tutto a capire se stesso. E noi in questa nostra mancanza di ascolto gli stiamo sottraendo il diritto ad ascoltarsi. È vero che lui parla con i suoi compagni, è vero che con i suoi colleghi adolescenti, con le sue amiche parla di questo, ma è un'esperienza, come dire, tutta orizzontale, tutta interna al loro mondo, un'esperienza molto ricca, un'esperienza insostituibile. Guai a quell'adolescente che non avesse amici con cui condividere lo smarrimento, lo spaesamento, la stessa critica ai propri genitori. Ma, no, ma gli manca il senso della prospettiva, che soltanto il dialogo sicuramente con la figura paterna, come poi per analogia, solo per analogia, diventa il dialogo con un tutor, il dialogo con un insegnante, il dialogo con un altro adulto, ma per analogia a quello che è stato, come dire, il dialogo con suo padre. Perché il tema vero dell'identità oggi è proprio il tema che non ci sono, ne vediamo un po', quello che noi riscontriamo oggi sostanzialmente anche nei nostri giovani è il dramma dell'identità deboli. Il dramma delle identità deboli, che sono quelle identità non realizzate per vari motivi, per mancanza di opportunità esterne a mettersi in gioco, ma soprattutto per quella mancanza dialettica di opportunità interna alla famiglia, che è quella per cui anche dal contrasto, ma da un contrasto rispettoso e animato dal desiderio di capire, nasce proprio nel dialogo in famiglia. Quando noi non abbiamo tempo per ascoltare, quando noi banalizziamo le cose che ci vengono dette, c'è solo una soluzione, un meccanismo di difesa a cui il figlio può ricorrere: non ce lo racconta più. Quei ragazzi che non parlano più sono ragazzi che, quando hanno parlato, non hanno trovato ascolto. Sono ragazzi che hanno trovato sempre che c'era un altro interesse principale rispetto a loro, che non c'era mai, come dire, abbastanza tempo. Allora io cosa vorrei sollecitare nell'immagine che mi piacerebbe di costituire in questo momento, proprio pensando alla famiglia? Ognuno di noi in una famiglia è come se fosse un punto essenziale, elemento essenziale di un sistema che ha un ancoraggio ai nostri genitori. Qualunque sia l'età che noi abbiamo un ancoraggio, come dire, al soffitto di questa struttura che ci viene dai nostri genitori. Alle volte questi genitori possono anche essere morti, ma sono comunque genitori interni, attivi, comunque dialoganti, sono un ancoraggio. Poi abbiamo un ancoraggio che sono i nostri figli, nel senso della responsabilità che sentiamo nei loro confronti. In questa dialettica di questo ancoraggio c'è tutta la prospettiva del tempo, c'è tutto quello che è, diciamo, il patto intergenerazionale, che è un patto che io dico è definito come minimo da 3 punti, ma che tutti sappiamo che è un patto che, per dirlo in qualche modo, può servire fino ad Amedeva, nel senso che oltre a questo c'è questa famiglia che gli ha generato questo, che ha generato quest'altro, che ha generato... C'è una continuità, non possiamo prescindere dalla continuità che ognuno di noi ha in sé. È una continuità biologica. Pochi giorni fa mi diceva una amica carissima che è stato diagnosticato un cancro all'ovaio, brutto cancro, ma la cosa peggiore di tutte è che, dice, era lo stesso cancro con cui è morta sua madre. Immediatamente, a parte che da quando è morta sua madre, ad oggi la medicina ha fatto una serie di progressi, ha guadagnato una serie di posizioni, però tu ti rendi conto che non solo c'è l'imprinting biologico, ma c'è anche già tutta una rappresentazione mentale di qualcosa che ti fa sapere che io sono inserito in questo film. Oppure ci sono anche altre cose più, come dire, più serene, più nella somiglianza creativa, nell'interesse condiviso. Ma c'è questo filone, quante volte adolescenti che sembravano avere interessi opposti a quelli del genitore, a un certo punto, fatta una determinata svolta, si scoprono essere portatori degli stessi interessi dei genitori, oppure si scoprono essere portatori per differenza degli anti-interessi dei genitori, proprio per non volersi confrontare con quegli interessi, segno evidente di un imprinting ancora molto vicino. Poi ci sono tutta una serie di ancoraggi che abbiamo, no? Sono gli ancoraggi ovviamente nella relazione di coppia, ancoraggio forte, moglie, al marito, l'ancoraggio forte ai fratelli, alle sorelle. Se immaginate questa serie di figli, vi rendete conto che c'è tutta una rete che ci attraversa. Su questa rete di questi rapporti che segna la nostra vita e in qualche modo definisce una rete, su questa rete noi andiamo cucendo gli eventi della nostra quotidianità. È come se ricamassimo su questa specie di rete quello che poi è il capolavoro della nostra vita, ma come un tessuto, ciò che tiene sono i rapporti fondamentali. E questo è quello che fa il fatto che si riesce così con tanta difficoltà a far capire perché la famiglia, lo diciamo tante volte tutti, perché la famiglia è la cella fondamentale della società. A furia di dirlo, l'abbiamo molto spesso banalizzata questa definizione e non riusciamo a coglierne la pregnanza. Ma provate a immaginare cosa sarebbe di un tessuto se noi ne sfilassimo i fili relazionali forti, cioè i fili di genitorialità, i fili di filiazione, i fili di convivialità, sono dei rapporti essenziali. Qualunque altro rapporto è un'analogia. L'amicizia con i miei coetanei è un'analogia del rapporto di fraternità. L'amicizia che ho con un mio professore, con una persona che in qualche modo reputo più competente di me, più maturo di me, è un'analogia con il rapporto di paternità. Quella relazione di tenerezza che scopriamo tante volte nei confronti dei più giovani è una relazione di genitorialità che stiamo declinando nella dimensione della filiazione. È l'essenza, non riusciamo ad immaginare rapporti che in qualche modo non siano per analogia ciò che sono in una vita di famiglia, i rapporti essenziali. Ora, in un adolescente è come se questi figli, che ovviamente hanno bisogno di avere un determinato grado di tensione positiva, che è fatta di flessibilità, ma fatta anche di tenuta. Ecco, in un'adolescenza è come se questi fili in qualche modo, quando succede un golfo di lana, quando dice si tira un filo, e dobbiamo pazientemente rimetterlo al suo posto. Ecco, è come se questi fili in qualche modo si sbrindellassero e perdesse perché manca la consapevolezza del valore di ancoraggio. Manca soprattutto nella dimensione della verticalità, perché nella dimensione della verticalità si mette in discussione il tema dell'identità. E questa è la delicatezza di come noi dobbiamo riuscire a mantenere il rapporto dell'autorevolezza nei confronti dell'adolescente senza mai trasformarlo in quell'autoritarismo che mette in crisi in lui la percezione del chi sono io, perché l'adolescente ha tanto bisogno di sentirsi figlio di lui, quanto ha bisogno però di non essere la copia conforme di lui. Io sono figlio e ho la mia identità filiale, ma non sono necessariamente come mio padre, ma anche in questo, e questo ci potrebbe portare molto lontano, ha una straordinaria ricchezza, perché io ho un padre e una madre, ed è proprio l'esperienza della dualità dei due genitori che fa sì che io sia un soggetto terzo rispetto a lui e rispetto a lei. Come dire, questo in qualche modo mi viene da mia madre, questo in qualche modo mi viene da mio padre. Faccio un esempio che alle volte con le ragazzine di club funzionava. È come se tu dicessi le uova e la farina vengono da tua madre, lo zucchero, il burro vengono da tuo padre. Sono gli ingredienti, ma quello che tu cucini, lo cucini tu. Quello che tu stai mettendo in piedi è tutto tuo quel progetto. Come si fa? In questo senso, poi sappiamo tutti come con gli ingredienti essenziali si possono cucinare cose molto diverse tra di loro. Bastano le proporzioni, basta il modo come ci si dispone. Ecco, è come se nell'adolescente gli elementi di coerenza di paternità e gli elementi di coerenza di maternità avessero bisogno di restituire a lui la responsabilità della figlia. Tu sarai ciò che tu vuoi, tu sarai ciò che tu puoi, ma tu puoi sempre più di quello che non credi, forse meno di quello che vorresti, ma più di quello che tu credi. E questo senza dire, perché mentre tu ti spingi fino ai confini della tua isola, renditi conto che tu sei arrivato ad esplorare l'oceano, cioè l'infinito. Ogni famiglia è in un certo senso, davanti alla porta di casa, il limite della casa e il confine dell'oceano, che è l'intera società in cui il ragazzo si muove. Varcare quella soglia è, sì, come diceva Giovanni Paolo II, in un certo senso varcare la soglia della speranza. Perché è varcare la soglia di poter uscire e di poter tornare. È varcare la soglia di poter fare come tu mi hai detto, come tu mi hai suggerito, come tu mi hai consigliato, ma è anche la possibilità di fare diversamente e di potertelo raccontare, senza per questo incorrere nelle ire, senza per questo incorrere in qualche modo in una sorta di anatema. Questa consapevolezza che qualunque cosa tu faccia, diciamola pure così, anche a tutte le bombe, quella che io mai avrei voluto che avessi fatto, questa esperienza del fare non cancellerà mai la struttura dell'essere, per cui tu sei e resti sempre e comunque mio figlio, e come tale io sono accanto a te per elaborare e rielaborare continuamente nell'esperienza della tua filiazione, quindi nell'esperienza della tua prevista, degli spazi in cui ti muovi, anche i tuoi lutti. Pensate quanti lutti noi adulti dobbiamo elaborare continuamente, pensate quanti lutti nel mondo professionale, ma anche lutti affettivi, anche lutti di rapporti di persone che scopriamo che non erano come avremmo pensato o forse come avremmo voluto, quante sacche di sofferenza abitano la nostra giornata e in qualche modo popolano i nostri malumori o il nostro malessere. Perché non dovrebbe essere così anche nella sua vita? Perché lui teoricamente invece dovrebbe azzeccarle sempre tutte, cosa che di fatto ovviamente non avviene, perché è giusto che non avvenga, di fatto non avviene. Ma il nostro atteggiamento nei suoi confronti a volte è un atteggiamento, come dire, sanzionatorio. Te l'avevo detto, te l'avevo spiegato, quante volte te lo devo dire? Scusa papà, ma a te quante volte te l'hanno detto? Quante volte te l'hanno spiegato? Ora voi vi chiederete, ma perché io insisto tanto? Non potessi chiarire una mia fissazione, in questo momento insistere tanto sulla figura del padre. Io penso che voi, se avete seguito un po' le cronache dei film che in questo momento sono andati in scena a Cannes, al Festival di Cannes, avete visto che in realtà i due film che hanno catalizzato maggiormente l'interesse di tutto il pubblico sono due film che hanno come nodo e come snodo centrale della loro vicenda la figura paterna. Uno è il film del bambino con la bicicletta. Questo bambino è il film dei due registi che vengono dal Belgio. Questo bambino che viene in qualche modo abbandonato dal padre dell'istituto, e il padre l'unica cosa che gli lascia è una bicicletta. E lui è, quando esce dall'istituto, ospite di una giovane amica parrucchiera che in qualche modo si prende un po' cura di lui, come se fosse una sorta di favola o metafora di questa immagine materna che non c'è più, o l'immagine della nonna che è morta. Questo bambino con questa sua bicicletta è sempre costantemente e continuamente alla ricerca del padre. Questa ansia di paternità di questo bambino di fatto è diventata una specie di leitmotiv che ha fatto di questo film uno di quelli più, come dire, capaci di evocare in una platea come è quella di un festival del cinema sensazioni ed emozioni più profonde. E l'altro è quello invece in cui, come del regista italiano Sorrentino, quello in cui immagina questa figura di star che vive un'esperienza forse abbastanza defilata rispetto alla sua società, che ha lasciato, che vive a Dublino, che ha lasciato il padre per una serie di difficoltà di rapporti con lui, ma che appena sa che in qualche modo il padre è morto, immagina tutta la sua vita, questo padre morto che nella vicenda del film, papà ebreo, che è stato un campo di concentramento e che ha portato su di sé uno stigma di difficoltà relazionale, di cui lui ha fatto l'esperienza sulla sua pelle, scatena in lui il desiderio, una sorta, diciamo, di vendetta, di andare a cercare colui che ha fatto suo figlio e suo padre, un padre che lui poi ha ignorato, credeva di aver ignorato tutto. E invece scopre di aver portato sempre dentro di sé e scopre che non troverà pace finché non ha trovato quella risposta. Questi sono soltanto due esempi di due film recentissimi che io, che sono dati come due capolavori e che io stessa desidererò andare a vedere, ma che mi hanno in qualche modo fortemente incuriosito proprio per questo immediato bisogno di rimettere al centro dell'attenzione la ricerca del padre. Questo perché la nostra società ha sofferto troppo per la mancanza di padre. I nostri adolescenti faticano tanto a venire fuori, faticano tanto a scolpire la loro identità, perché faticano tanto a trovare questa intimità nel rapporto paterno che costituisce l'ascolto non giudicante, ma invece quell'ascolto che è sollecitante, molto diverso. Sapere ascoltare senza giudicare per poter in qualche modo nell'incoraggiare tornare, come dire, a cimentarsi con le battaglie. Vai a dire, come dire, mai più. Come mai più? Come la metafora della caduta di cavallo. La prima cosa che fai dopo che sei caduto da cavallo è rimontare a cavallo. Trasformare immediatamente quell'esperienza che è stata di sofferenza in un'esperienza che è di insegnamento. Quella sorta di learning by doing. Noi vorremmo tutti insegnare cavalcando il massimo la prevenzione dal dolore, dalla sofferenza, ma soprattutto la prevenzione dal dolore. Viceversa, molto spesso la parte più efficace dell'educazione la facciamo proprio a partire dall'errore, a partire dalla caduta, a partire dalle ferite che ci siamo provocate. Ecco, nessuno più di un padre attento, che chiaramente è coinvolto in questa relazione da una madre che affettivamente è più facile che voglia sviluppare nei confronti del figlio quella tenerezza inclusiva, quella consolazione. Guai a chi mi tocca mio figlio, no? Viceversa, un padre sa che se nessuno tocca quel figlio vuol dire che quel figlio non cresce mai. Come quanto succede con i fichi, no? Che per farli maturare più in fretta ogni volta bisogna pungere. E questa dialettica tutta familiare di una relazione di accoglienza, di una relazione che assume su di sé in una sorta di nuova gestazione e che genera il bamboccione, o che comunque genera anche un adulto, un figlio adulto molto acculturato. Oggi abbiamo ragazzi che sono laureati, che sono specializzati, che hanno un dottorato di ricerca, ma che sono incapaci di proporsi nel dialogo con la società come elementi forti e capaci di, una, come dire, di contrattare anche, come dire, una rielaborazione di tutte queste competenze, una sorta di sfida positiva. E questo perché è mancato nel loro progetto formativo. Diciamo, è prevalsa quella formazione dell'intelligenza alla conoscenza, alle, chiamiamole così, competenze intellettuali, ma è mancata invece quella sollecitazione allo sviluppo delle competenze relazionali, delle competenze gestionali, della capacità di andare incontro alle difficoltà, per, come dire, spezzare il cerchio della difficoltà. Qualcuno gli doveva dire: tu puoi, vacci, provaci, misurati. Non basta, come dire, il gironzolare, non basta il circolo degli amici, occorre il percorso che sappia segnare una traiettoria, occorre appunto quella persona che è capace di illuminare di senso quelle esperienze, perché tu poi le possa percorrere con autonomia. Ecco, io concludo queste mie osservazioni dicendo... c'era una volta un film tanti anni fa, o comunque, cioè, non è mai troppo tardi, dicendo questo, che non è mai troppo tardi per ognuno di noi, primo, per fare pace con i propri genitori interiori. Alcuni di noi ce li hanno ancora, alcuni non ce li hanno più, ma c'è sempre vivo dentro di noi il genitore interiore. E ognuno di noi a qualunque età può sempre fare pace con il proprio genitore interiore e in qualche modo rilanciare questo dialogo, ricapirsi per riproiettarsi. De fatto, chi di noi oggi esercita il suo ruolo di genitore, massimamente di genitori adolescenti, in un periodo in cui l'adolescenza comincia sempre prima e finisce sempre dopo, perché intendiamoci, finché quel figlio non lavora, finché quel figlio non ha assunto la sua personale responsabilità nel far famiglia, ci sarà sempre in lui qualcosa dell'adolescente che avrà bisogno di essere sollecitato ad andare. Attenzione, non trasformiamo in un'ennesima gestazione quello che dovrebbe essere una sorta di rompere il dormeggio per andare, perché poi si può sempre tornare, perché al ritorno c'è sempre qualcuno che ti aspetta. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di recuperare in questo modo la dimensione etica dell'educazione, che è un'educazione forte alle virtù, in questa parola così fuori di moda, concludo, ma è un'educazione forte alle virtù in cui io assumo la responsabilità della mia vita, assumo la responsabilità delle mie qualità, l'assumo coraggiosamente, mettendo totalmente in conto che mi sbaglierò 1, 10, 100 volte. Quindi non è un'educazione a non sbagliare, è un'educazione a raccontare perché mi sono sbagliato, a cercare di capire perché mi sono sbagliato e a cercare di rilanciare con positività un progetto di vita che da questo punto di vista può essere sempre più entusiasmante e sempre più soddisfacente e, diciamo tra virgolette, anche sempre più positivamente orientato all'interesse verso gli altri, al servizio verso gli altri e alla consapevolezza che ognuno dei nostri figli ha molto da dare e che molto può fare. Grazie.